Gli speciali di Radio 24. Le voci del 2016. Le sfide del 2017. Di Cristina Carpinelli e Dario Ricci. Thank you. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. I say it is time for us to come together as one united people. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto. Come era evidente, è scontato fin dal primo giorno. L'esperienza del mio governo finisce qui. Ho fatto del mio meglio per formare il nuovo governo nel più breve tempo possibile. Eder, di forza! Eder! Un sogno che si avvera, diciamo. Quando ero piccolino, avevo 6 anni, ho iniziato. E dal primo giorno che sono salito sul tatami, il mio pensiero era vincere le Olimpiadi. La sogni da talmente tanto tempo, la vuoi veramente da talmente tanto tempo che... se per 4 anni continui ad allenarti tantissimo solo pensando che vuoi avere questa bellissima cosina in mano, poi non c'è il momento in cui dici che non ce la puoi fare, perché è tua. È dai responsabili dire sì a questa candidatura. Non ipotechiamo il futuro di Roma e dell'Italia, no, non intendiamo farlo. Con le Olimpiadi. Benvenuti dunque a questo speciale dedicato ai fatti che sono accaduti nel 2016. Abbiamo aperto questo lavoro con questa bellissima copertina che ha raccolto poi tutte le voci, o almeno abbiamo tentato di mettere le voci significative del 2016, copertina realizzata dal nostro Dario Ricci, che è qui in studio con me. E, ben ritrovati, ciao Cristina. Ciao Dario, e da Pietro Lacorte in regia. 2016, che dicevamo è stato un anno carico di tante notizie emozionanti, notizie belle, purtroppo anche molte notizie brutte, notizie anche di rotture come la Brexit, che poi analizzeremo, e anche di grandi nomi scomparsi in questo 2016. Tutte queste cose abbiamo deciso appunto di raccontarvele, anche facendovi sentire la voce dei protagonisti. Dario? Eh sì, le abbiamo sentite rapidissimamente, no? Ma adesso andremo in profondità nell'anno che è stato. Donald Trump, Papa Francesco, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, il gol di Eder, Fabio Basile, la 200ª medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi estive, per fortuna Ariana ne abbiamo vinta anche qualcuna in più, e poi Bebe Vio, il volto dello sport paralimpico, e Virginia Raggi, la sindaca di Roma, il volto nuovo della politica, il simbolo del Movimento 5 Stelle, che diventa protagonista, ma anche colei che con la sua giunta ha detto no alla candidatura olimpica di Roma verso il 2024. Questi, a nostro modo di vedere, i protagonisti del 2016, ma quello che proviamo a raccontarvi oggi insieme a Cristina Carpinelli è anche le conseguenze, gli effetti, il riverbero, i riflessi dell'anno che è stato sull'anno che verrà. Proviamo un po' a leggere nel futuro di questi 365 giorni, a far le carte a quest'anno cui ci affacciamo con speranze, timori, paure, ma anche fiducia. Difficile quando ci confrontiamo con l'orrendo spettro del terrorismo che a dicembre, ad esempio, ha colpito Berlino, un attentato terroristico compiuto con la stessa tecnica usata a Nizza il 14 luglio scorso, quindi un tir lanciato a grande velocità sulla folla. Insomma, una storia che poi ne racconta tante altre. Lo stato d'allerta resta altissimo anche in Italia, così dice il procuratore nazionale antiterrorismo Franco Roberti, che è stato intervistato dal nostro Alessandro Milan proprio dopo l'attentato di Berlino. E allora partiamo proprio dalla sua voce. Noi in Italia non abbiamo mai ridotto il nostro stato di allerta, ed è sempre al massimo. Quindi questo, ripeto, non ci rende immuni dal rischio in assoluto. Noto che, secondo stime abbastanza attendibile, dall'Europa sono partiti negli ultimi anni circa 30.000 foreign fighters. In Italia sicuramente il 2016 è stato l'anno di tanti eventi, ma forse il più traumatico e quello vissuto in modo più sentito dall'intera comunità nazionale è stato il terremoto, o meglio, purtroppo viene da dire i terremoti, no? Perché di fatto da fine agosto, tra il Reatino, il centro Italia, la zona delle Marche, l'Umbria, diverse sono state le aree del paese colpite dallo sciame sismico. E allora sentiamo un estratto della testimonianza del sindaco di Accumuli a pochi istanti dalla scossa del 24 agosto. La strada spaccata con i muri di contenimento aperti proprio, siamo senza luce, se non vengono i vigili del fuoco c'è una famiglia che sta sotto le macerie, non riusciamo a contattarli. E dunque, Dario, quella che abbiamo sentito appunto è una testimonianza molto forte, perché racconta proprio la paura, perché era quasi in presa diretta questa intervista, c'erano ancora persone da tirare fuori dalle macerie. Paura ma anche tanta rabbia, come abbiamo avuto modo di raccogliere poi nel corso di questi mesi. Ora sono passati tanti giorni, tanti mesi, anche dalla forte scossa di terremoto che ha colpito le stesse zone il 26 ottobre scorso, e in molti si sono chiesti che cosa stanno facendo le persone che hanno perso tutto, che hanno perso la casa, che hanno perso il lavoro, la scuola, l'identità quasi. Ecco, su questo punto mi ha risposto il sindaco di Amatrice, Sergio Perozzi, dicendo: no, l'identità noi non l'abbiamo persa, siamo rimasti qui, abbiamo continuato a tenere viva l'anima di Amatrice, anche perché molte persone hanno tentato di continuare a lavorare ad Amatrice, molti piccoli imprenditori hanno dormito nei magazzini dove potevano, dove era possibile dormire. Insomma, questa è la storia di un popolo, come ci ha detto lo stesso sindaco, che non molla. È inutile portarsi indietro, che ci nutriamo del futuro, il futuro la sta incominciando. Qui adesso torno proprio dall'area food, vedo le piazzole dove andranno le case che crescono, e rincominciamo da qui. Quindi ci saranno anche queste casette, c'è questa mensa, ci sarà un centro con i ristoranti, tutto provvisorio, però lei dice almeno partiamo da qualcosa che è vagamente solido rispetto a una tenda, rispetto allo stare. Sì, no, ma è un provvisorio fino a un certo punto, insomma, queste qua sono bellissime strutture in legno, che si affacciano sullo scorcio mozzafiato dei Monti della Laga, questo potrà diventare, in attesa della ricostruzione, un centro food di eccellenza. Insomma. Voi non vi siete mai allontanati dalla zona, cioè avete deciso di restare? Io so anche di alcuni piccoli imprenditori che hanno letteralmente dormito nei magazzini, nei posti dove si poteva stare, pur di non mollare anche l'attività. Quindi avete sempre dato il senso di appartenenza al territorio. Cosa vi aspettate adesso per il 2017? Guarda, io ti dico, noi qui siamo rimasti in 1020, questi sono i miei eroi, ma come lo sono le persone che stanno fuori? Ma è chiaro che queste persone che sono rimaste qui perché hanno un'attività, hanno un lavoro qui, si sono adattati, ma poi in fondo questo è un popolo che ha un grande senso di appartenenza, questo è un popolo tosto. E voi adesso cosa puntate per il 2017? Ma io punto alla scuola definitiva, alla fine di maggio, ad avere le case, che sia sgombrato tutto il territorio dalle macerie. Una partita che inevitabilmente continuerà anche nel 2017, quella delle popolazioni del centro Italia, ma di tutta l'Italia, nella gestione delle conseguenze del terremoto e soprattutto sulla strada della ricostruzione. Però proviamo anche a sorridere dell'anno che è stato, parlando dello sport vero e proprio. È stato un anno importante, Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei di calcio. E altrettanto importante sarà il 2017, perché non mancano succosi appuntamenti in calendario. E poi il 2016, Dario, è stato anche un anno in cui sono andati via grandi nomi dello spettacolo, ma anche grandi nomi dello sport, come hai avuto modo di raccontarci. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds, 6 seconds. Ali, having scored with a left and a right, holding on. The fight is about to end and it is over. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a beast. The Greatest, il più grande. Il 2016 è stato l'anno in cui ci ha lasciato Cassius Clay, Muhammad Ali, forse il più grande sportivo di sempre, per quello che ha saputo fare dentro e fuori del ring, persino da malato di Parkinson, accendendo, lo ricorderete, tremante e silente, la fiaccola olimpica d'Atlanta nel 1996. Eder, Eder di forza, Eder! Il calcio invece ha visto la sorprendente vittoria del Portogallo ai campionati europei in Francia. 1-0 in finale per i lusitani contro i padroni di casa col gol decisivo siglato ai supplementari da Eder. E con Cristiano Ronaldo, uscito dopo pochi minuti per infortunio, ma autore di un'annata straordinaria, con le vittorie in Champions, mondiale per club con la maglia del Real Madrid e l'ennesimo pallone d'oro. Gli azzurri vengono eliminati solo ai rigori negli ottavi di finale dalla Germania. Si chiude così l'esperienza in panchina di Antonio Conte, sostituito da Giampiero Ventura, che dovrà far approdare la nazionale ai mondiali di Russia 2018. Il bilancio dal punto di vista numerico è positivo, 3 vittorie in trasferta, un pareggio in casa con la Spagna, primi in classifica insieme alla Spagna, al di là della differenza reti, è sicuramente positivo. Ma l'anno appena trascorso è stato anche quello delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, le prime disputatesi in Sud America. Rio is ready to make history. Rio sta pronto per fare storia. Tra problemi organizzativi ed entusiasmo, l'Italia ha conquistato 28 medaglie, 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi. La prima d'oro forse è stata la più significativa, perché è stata anche la 200ª d'oro per il nostro paese ai giochi estivi, e a vincerla è il judoka Fabio Basile, che così ci ha raccontato la sua gioia appena sceso dal podio. È stato un sogno che si avvera, diciamo. È un sogno che aspetto da quando sono alto 1,90 m, quando ero piccolino, avevo 6 anni, ho iniziato. E dal primo giorno che ho attaccato, che ho salito sul tatami, il mio pensiero era vincere le Olimpiadi. Ancora più grande, se possibile, il successo delle Paralimpiadi, che hanno portato alla ribalta i risultati e le storie dei tanti campioni azzurri. Nella handbike, ennesimo alloro olimpico per il fenomenale Alex Zanardi. Io qualche tempo fa sognavo di scoprire fino a che punto sarei potuto arrivare fisicamente parlando, e oggi lo so. E la domanda a questo punto è fino a che punto potrò rimanere a questo livello, però l'entusiasmo e la curiosità è la stessa dell'inizio. Fenomenale Alex, come fenomenale Bebe Vio, la veneziana oro paralimpico nella scherma. Lei che a 11 anni, a causa di una meningite, ha subito l'amputazione di gambe e braccia. La sogni da talmente tanto tempo, la vuoi veramente da talmente tanto tempo che se per 4 anni continui ad allenarti tantissimo solo pensando che vuoi avere questa bellissima cosina in mano, poi non c'è il momento in cui dici che non ce la puoi fare, perché è tua. Ma il 2016 è stato anche l'anno del no alla candidatura di Roma per ospitare i giochi del 2024. Dopo settimane di dibattiti e polemiche, la giunta pentastellata del Campidoglio, guidata dalla sindaca Virginia Raggi, boccia la richiesta di candidatura avanzata dal CONI, per l'amarezza del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Non ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai parlati, non c'è mai stato un confronto, non si è mai entrato nel dettaglio, si è andato avanti solo su slogan, su frasi fatte, su ipotesi di rischio, di speculazioni, di reati, tutto questo senza minimamente valutare quello che erano soprattutto i benefici e le opportunità. Ma ora guardiamo al 2017, che dovrà essere l'anno del riscatto anche per la Ferrari e Valentino Rossi, che torneranno a dare la caccia ai mondiali di Formula 1 e MotoGP, ma sarà anche l'anno di tante rassegne iridate di molte discipline olimpiche, dall'atletica alla scherma al nuoto. E poi in estate, sempre in estate, ecco la Confederations Cup di calcio in Russia, tappa d'avvicinamento proprio alla fase finale di Coppa del Mondo del 2018. Il 2016 è stato anche l'anno del referendum in Italia, referendum che si porterà dietro una serie di conseguenze sul piano politico, la prima le dimissioni di Matteo Renzi dalla presidenza del Consiglio, ma di questo parliamo tra pochissimo. Gli speciali di Radio 24, le voci del 2016, le sfide del 2017. shall offer. There's nothing much to take. Tributo alla voce immensa di David Bowie, che ci ha lasciato all'inizio del 2016, era proprio gennaio, no? Se non ricordo male, Cristina, 69 esatto. anni, a causa di un tumore contro il quale combatteva da ormai 18 mesi, ha regalato un ultimo album che è stato e che è una sorta di suo testamento musicale spirituale. Bowie è stato uno dei personaggi più eclettici e lungimiranti della storia della musica. Un anno, quello appena trascorso, che si è portato via dei nomi importanti della storia e non solo del mondo dello spettacolo. Oltre a Bowie, ricordiamone alcuni: il grande Umberto Eco, Prince, Leonard Cohen, Ettore Scola, Dario Fo, ma anche e forse soprattutto Fidel Castro, Cristina? La morte di un leader che in fondo racconta le contraddizioni di un paese come Cuba, che adesso rimane sospeso tra il passato e il futuro. Direi tutt'altro scenario, altrettanto imprevedibile forse, ma per motivi decisamente diversi, quello di casa nostra in Italia. Come ben sapete, ed è la storia recentissima, è proprio la coda del 2016 sul fronte della politica. La fine dell'anno scorso ha segnato la caduta del governo Renzi dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre, vinto nettamente dal no. E allora sentiamo proprio le parole dell'ex premier. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto. Come era evidente, è scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. E quindi la fine di questo governo Renzi, che era nato circa 1000 giorni prima, apre di fatto una fase di grande incertezza per l'Italia, come avremo modo di vedere nel corso delle prime battute. Subito dopo la caduta del governo Renzi saranno in molti a tentare un'analisi, anche analisti internazionali che vedono in questa dimissione anche la possibilità di un'incertezza grave dal punto di vista economico, soprattutto per l'Italia. E invece la situazione viene subito, diciamo, sanata, anche se almeno temporaneamente, grazie a un governo di scopo. Un governo di scopo che è voluto dal Presidente della Repubblica Mattarella, di fatto per scongiurare un ritorno immediato alle urne. Questo nuovo Presidente del Consiglio sarà Gentiloni. Ho fatto del mio meglio per formare il nuovo governo nel più breve tempo possibile, per aderire innanzitutto all'invito del Presidente della Repubblica e credo anche nell'interesse della stabilità delle nostre istituzioni, alla quale guardano le italiane e gli italiani. Insomma, 2017 che inizia con parecchi punti interrogativi, no? Si procede a vista, o meglio, definendo delle strategie. Mi vengono in mente anche il tema ancora caldo, e sicuramente lo sarà ancora all'inizio di quest'anno, della sostenibilità, della fragilità strutturale del nostro sistema bancario, del mondo della finanza che fibrilla anche intorno al braccio di ferro Vivendi, Mediaset. Insomma, sono capitoli la cui parola fine è ancora tutta da scrivere, no, Cristina? Quel che è certo è che la svolta epocale nel 2016 è arrivata con le elezioni americane. Tutti a immaginare la vittoria di Hillary Clinton, ci troviamo invece un tycoon seduto alla Casa Bianca. Eh sì, e poi tra l'altro anche su questo ci sarebbe molto da raccontare, nel senso che forse i giornalisti, o comunque chi era incaricato di ascoltare quella che si dice la pancia del paese, dell'America, non ha ascoltato forse i rumori giusti, ha seguito un'inclinazione propria piuttosto che ascoltare veramente. Perché? Perché di fatto in molti, poi subito dopo la vittoria di Trump, hanno spiegato, in molti elettori hanno spiegato che era chiaro veramente a tutti che gli americani erano stanchi dell'establishment, che non volevano più avere i Clinton, non volevano più avere gli Obama, e quindi come atto di rottura, paradossalmente, vanno a votare Donald Trump. For America to bind the wounds of division, have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Per i repubblicani, dice Trump, che stiamo ascoltando, e democratici, è arrivato il tempo dell'unione, dobbiamo collaborare, lavorare insieme, riunire la nostra grande nazione. I dimenticati di questo paese da oggi non lo saranno più. Quindi questo è quello che dice Trump appena saputo della sua elezione a presidente degli Stati Uniti, 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Questo è Donald Trump, una notizia che arriva sul finire del 2016 e le cui ripercussioni staremo a vederle appunto quest'anno, perché Trump si insedierà di fatto il 20 di gennaio alla Casa Bianca, porterà con sé molte idee che tanti hanno guardato con sospetto nel migliore dei casi, alcuni con orrore, con timore. Bisognerà vedere però quali dei progetti fin qui presentati diventeranno poi reali e quanti invece sono stati appunto una sorta di bandiera appunto usata in campagna elettorale. In fondo è lui stesso a dire in campagna elettorale: vi lascerò nella suspense. E su cosa si giocherà la partita davvero, appunto, dovremo stare ad aspettare per capirlo. Eh sì, intanto sta profilando la sua squadra di governo, un governo conservatore, repubblicano, e questo era nelle attese. Vedremo appunto, come ben sottolineavi, quale sarà un po' il punto di caduta, no? tra l'enfasi della campagna elettorale e poi la necessità di guidare quello che comunque è il paese a cui tutto il mondo guarda. Insomma, non c'è niente da fare, la Casa Bianca anche nei periodi di magra, diciamo così, rimane il cuore del mondo. Altro grande tema di questo anno nuovo sarà quello relativo agli sviluppi della Brexit. Qui in studio con noi ci ha raggiunto Sergio Nava. Sergio, intanto partiamo dalla notizia, cioè a che punto siamo con Brexit, perché se è vero che la scelta furor di popolo ha dato un responso, forse ora però la politica reale si è accorta davvero del disastro che questo comporta. Sicuramente, diciamo che se ne sono assolutamente accorti, nel senso che basta vedere l'ultimo Consiglio europeo, dove la scena forse più simbolica ed eloquente è stata quella di una premier britannica, Theresa May, lasciata praticamente da sola, si aggirava, guardava in giro, cercava di stringere la mano o sorridere a qualcuno, e nessuno di fatto le dedicava attenzioni. Siamo in una fase estremamente complicata, perché i britannici hanno un team al lavoro su Brexit e sta lavorando moltissimo su questo, ho delle fonti che possono confermarlo, però allo stesso momento l'Europa non è decisa a non fare sconti, quindi c'è ancora molta confusione. Theresa May vuole diciamo per marzo far partire ufficialmente i negoziati con l'attivazione dell'articolo 50. L'Europa si è divisa nelle ultime settimane. Si voleva mettere ai margini il Parlamento, poi a quanto pare ci si è anche ricompattati, però quello che l'Europa dice è: attenzione, o pagate per accedere ai servizi e comunque se entrate nel mercato unico dovete in qualche modo partecipare a tutto e non dire i lavoratori no, però i servizi finanziari sì, e soprattutto dovete anche versare. C'è chi dice addirittura 60 miliardi potrebbe costare questa partecipazione britannica in futuro dal 2019 all'interno del mercato unico europeo. Quindi c'è ancora molta confusione, diciamo, sotto il cielo. Sentiamo a questo proposito, anche per tornare un po' indietro con la memoria, quello che fu l'annuncio il 24 giugno mattina dei risultati del referendum britannico. The total number of votes cast in favor of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favor. E questa era la voce, è la voce di Jenny Watson quando appunto ha annunciato i risultati di Brexit. Ecco, quella che è emersa, diciamo, in quest'ultimo periodo è anche un'Europa, un po' lo anticipavi tu, che si è sgretolata sui grossi temi. Abbiamo visto le difficoltà che si sono riscontrate sul tema dei migranti, tuttora in corso. Brexit è in parte un'estensione di questo argomento. Come la vedi la fotografia dell'Europa per il 2017? Quali sono le grosse sfide che dovrà affrontare l'Unione Europea? Diciamo che se il 2016 è stato un anno vissuto pericolosamente, il 2017 sarà un anno pericoloso. E quindi sarà ancora forse più difficile, perché abbiamo elezioni olandesi a marzo, elezioni francesi presidenziali tra aprile e maggio, elezioni tedesche, quelle forse sono tra virgolette più tranquille, perché c'è solo un rischio degli euroscettici dell'AfD, ma difficilmente potranno mai ambire a conquistare la cancelleria a settembre, ed elezioni italiane probabili, presidenza Trump che inizia, che è tutto tranne che filo europeista. Se guardiamo l'insieme dell'anno, sono più i rischi di ulteriore disgregazione e disunione, purtroppo, e con l'avanzata ulteriore della destra, degli euroscettici, che non le opportunità. Dossier fondamentali, grossissimi, restano sul tavolo, come per noi i migranti, ma anche la crescita, i conti pubblici. Chiunque, insomma, conosca Bruxelles, viva Bruxelles o lavori a Bruxelles, sa che bisogna veramente incrociare le dita, perché questo può essere un anno molto molto difficile per l'Europa. Grazie dunque a Sergio Nava con questa fotografia, di certo con tinte fosche anche del futuro dell'Europa, staremo a vedere. Adesso ci fermiamo per qualche istante. Gli speciali di Radio 24. Le voci del 2016. Le sfide del 2017. Ancora insieme con l'anno che è stato, il 2016 e il 2017, l'anno che verrà. Un saluto da Dario Ricci e da Cristina Carpinelli. E allora, caro Dario, come abbiamo sentito, il tema dell'accoglienza, del tenere la porta aperta, non è solo un tema religioso affrontato durante il Giubileo, è un tema che sta condizionando anche molto le politiche europee. Il 2016 è stato infatti l'anno record per gli sbarchi in Italia, e anche l'Europa è sempre più sotto pressione. A livello mondiale è in crescita anche il numero delle vittime. Insomma, sono storie che continuiamo a raccontare, a volte quasi sembra che ci stiamo abituando, insomma, a una cronaca sempre più cruda, sempre più nera, perché quello che raccontiamo è anche la storia di tanti bambini, di tanti ragazzini che sbarcano da soli, non si sa dove finiscano. Insomma, sono tante le questioni che si stanno incrociando e che l'Europa, l'Italia soprattutto, sta tentando di affrontare con i mezzi che ha, perché di fatto è anche difficile, insomma, sostenere flussi che vengono da paesi in guerra, ma anche, come abbiamo detto, da paesi che sono stati devastati magari dalla siccità, dalle inondazioni. Quindi sono storie diverse che si incastrano, sono storie diverse che vanno gestite in maniera differente. Eh sì, e sono storie che hanno un immediato riflesso anche sullo scenario politico, no? Basti pensare che sicuramente questo sarà uno dei temi caldi, se non caldissimi, delle presidenziali francesi, che vedono il Front National di Marine Le Pen sicuramente protagonista, come e ancora di più di quello che è stato in passato. Ma basti anche vedere, Cristina, tutta la dialettica, uso un eufemismo definendola tale, proprio in ambito europeo a Bruxelles, tra i vari paesi membri e soprattutto il fronte dell'Est, che è estremamente chiuso e rigido nella sua politica, definiamola pure anti-immigratoria. Quindi scenario questo davvero ancora tutto da decriptare in chiave 2017, con conseguenze decisamente imprevedibili. Sì, ammettiamo la nostra finitudine nel provare a leggere nei fondi del caffè dell'Europa delle grandi migrazioni. Sì, poi la nostra Valentina Furlanetto ha tentato anche di spiegarci che cosa porterà questo 2017 sul fronte dei flussi, guardando anche ai movimenti appena trascorsi. Allora sentiamo intanto il servizio che ha realizzato Valentina. I libri di storia racconteranno che nel 2016 10 persone morivano in media al giorno nel tentativo di raggiungere l'Europa su un gommone o una barca. L'anno che ci lasciamo alle spalle è infatti l'anno dei record per vittime in mare, il dato è dell'OIM, ma anche per sbarchi e accoglienza in Italia. Gli arrivi al 16 dicembre hanno superato i 179.000, il triplo rispetto al 2011. È cresciuto in modo esponenziale anche il numero dei richiedenti asilo. Nei primi 10 mesi del 2016 sono state presentate 98.000 domande contro le 84.000 nel 2015. E tuttavia sono stati ottenuti anche dei risultati, come l'accordo siglato a dicembre fra Viminale e Associazione dei Comuni per una ripartizione equa dei migranti. A livello europeo è slittata sotto la presidenza maltese da gennaio la discussione sulla riforma del diritto d'asilo, con l'Italia soddisfatta perché rispetto alla presidenza slovacca La Valletta può avere posizioni più vicine a Roma. Non sarà comunque un anno facile, perché la Commissione già prevede che entro il 2017 arriveranno sul vecchio continente circa 3 milioni di richiedenti asilo. Intanto si lavora per combattere le cause profonde della migrazione, dicono a Bruxelles. L'Unione Europea ha dato via libera a dicembre a un nuovo pacchetto da oltre 600 milioni di euro per il Niger, corridoio dell'arrivo dei migranti in Libia e poi in Europa. E tuttavia questi accordi hanno anche un prezzo. Secondo 31 ONG, circa 16.000 migranti e rifugiati, donne e bambini compresi, a causa dell'accordo fra Unione Europea e Turchia, continuano a vivere in condizioni disumane tra Lesbo, Chios, Samos, Leros e Kos. Le 31 organizzazioni chiedono ai leader europei di non concludere con i governi africani accordi simili a quello con la Turchia, avendo il solo scopo di tenere i migranti lontano dall'Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dicevamo, Dario, quindi questo quello che ci ha raccontato Valentina in questo servizio, ma il 2016 è stato anche l'anno che ha visto per protagonista la guerra in Siria, che ha consegnato proprio fino alla fine le sue ultime istantanee di orrore, di drammaticità, perché se solo pensiamo ad Aleppo Est, ancora adesso la situazione è drammatica, ci sono persone che si stanno spostando, non sanno neanche dove poter andare, sono prostrate da mesi e mesi di difficoltà, mesi trascorsi senza cibo, senza medicine, senza acqua, senza riscaldamento, con case, ospedali ridotte in maceria. È questo il sesto anno di questa guerra che appunto si è svolta con alti e bassi, è anche forse la fotografia di un'Europa che ha fatto fatica a capire come si doveva muovere, è arrivata tardi. Poco tempo fa sentivo un'intervista a un grande esperto che spiegava che forse a questo punto la situazione è andata talmente oltre in Siria che è quasi difficile pensare a una possibile evoluzione, come dire, diplomatica, perché ci sono tante forze in campo, alcune appunto gestite da sponsor, come dire, internazionali, ma altre sono proprio cani sciolti, sono gruppi terroristici che di fatto stanno avendo la loro parte in questa storia. Quindi sarà molto difficile riuscire a capire come andrà avanti. Certo, situazione siriana che quindi in questo momento al centro dei riflettori, situazione politica in quello scenario davvero complessa, anche perché gli agenti in campo, come ricordavi, sono tanti, e mi viene in mente la Turchia di Erdogan, no? Che è stata a suo modo grande protagonista anche del 2016, prima nei suoi rapporti burrascosi con l'Europa, poi nel tentativo sempre più esplicito di islamizzazione del paese, portato avanti dal Rais. Ricordiamoci il golpe cui Erdogan è scampato nel luglio scorso. Chissà, forse è stato, molti osservatori internazionali l'hanno anche definito un finto golpe orchestrato ad uso e consumo del consolidamento del potere interno. Quindi situazione anche quella tutta in evoluzione. E poi ricordiamo qui conflitti dimenticati, no? Uno davvero vicinissimo a noi, e non solo per la distanza chilometrica, sicuramente non straordinaria, ma anche per il riflesso che ha sulla nostra società, quanto è numerosa e importante la comunità ucraina e anche la stessa comunità russa. Bene, in Ucraina sono anni che si combatte ormai conflitto che ha fatto già 10.000 morti. Pazzesco. Ma che sembra davvero dimenticato dallo scenario internazionale, anche visto il risalire a nuova alba della stella dello zar Vladimir Putin. Il nostro Gigi Donelli, attento osservatore di tantissime cose, in particolare anche di quest'area, ha provato allora a ricostruire quello che è la guerra dimenticata tra Russia e Ucraina. Per l'Ucraina il 2016 è stato un anno di difficoltà economiche e di guerra. Le difficoltà hanno colpito tutti, la guerra invece solo una parte del paese, minoritaria in termini numerici e territoriali. Ma si tratta di una guerra lacerante, una di quelle che divide da dentro le famiglie, che le sposta da una parte all'altra del paese. Basta visitare i cimiteri dell'Ovest, nella capitale occidentale Leopoli, in quella che una volta era la Galizia austriaca, per misurare come questi 1000 giorni uccidano lontano dall'est separatista. Chi ha ragione e chi ha torto? Nessuno, tutti. La storia offre un contributo di comprensione, ma pochi la ascoltano. Noi italiani dovremmo offrire qualche idea, con il modello Alto Adige su Tirol, che infastidisce i più perché non è semplice, non è definitivo. E allora avanti con la guerra, che ha il merito di essere semplice e per alcuni anche profittevole. 3 anni dopo la speranza fallita di Maidan, il Donbass è il campo di battaglia dove l'Europa, immobilizzata dalle sue divisioni, lascia che Stati Uniti e Russia si arrocchino nei loro interessi. Ma anche questo è ovviamente opinabile. I morti lo sono meno. Oltre 10.000 a fonte ONU, dal 6 aprile 2014. 25.000 feriti, più di 1,5 milioni i profughi interni. Il 2017 dell'Ucraina riparte da qui. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. E poi il 2016 è stato anche l'anno dei Nobel particolari, forse potremmo dire dei Nobel mancati, perché quello alla letteratura è andato a Bob Dylan, che praticamente dopo 32 giorni di silenzio ha comunicato con una lettera che non sarebbe andato alla cerimonia per il ritiro, e questo ovviamente ha fatto impazzire quasi tutti, sia sui social che sui giornali. Si è discusso tantissimo, si è anche molto riso di questa sua presa di posizione, che tuttora risulta appunto di difficile lettura, anche perché è arrivata con un ritardo talmente lungo rispetto alla notifica, diciamo, della vittoria, che insomma, magari insomma il 75enne Dylan non avrà il telefonino, magari si affida ancora alla rete fissa, dai. Però insomma è stato eccentrico. È stato molto eccentrico, bravo, esatto. Questo è sicuramente un tratto che lo ha sempre caratterizzato in tutto il suo percorso, che comunque al di là di questa vicenda non toglie la grandezza appunto delle sue canzoni, delle sue opere. E l'altro Nobel significativo, dicevamo, è stato quello per la pace, che è andato all'uomo della riconciliazione tra FARC e governo, che è stato il presidente colombiano Manuel Santos, 65 anni. E proprio a lui l'Accademia di Oslo ha dato questo premio, perché ha riconosciuto la sua lunga battaglia per riportare la pace in un paese devastato da una guerra durata più di mezzo secolo. Torniamo in chiusura a parlare di casa nostra, perché disegniamo i grandi scenari internazionali, rievochiamo i grandi eventi del 2016, proviamo a leggere negli scenari del 2017, ma poi la quotidianità è fatta anche di piccole e grandi cose, e sicuramente non piccola e di grande importanza è la scuola, la riforma prevista dal governo Renzi della buona scuola. Non è riuscita a soddisfare quasi nessuno, nel senso che ha creato un dibattito molto acceso e ha lasciato aperte ancora molti problemi sul terreno. Ecco, la nostra Maria Piera Ceci, che guarda sempre con grande attenzione ai temi della scuola, ha provato un po' a ricostruirla, definendo ancora quali sono gli scenari aperti e che inevitabilmente influenzeranno la quotidianità di tanti milioni di famiglie di italiani. Io sogno una scuola dove al centro ci sia il bello, non il bidello. Così scherzava Crozza nell'imitazione di Renzi e della sua buona scuola. Cos'è stata la buona scuola? Beh, innanzitutto la regolarizzazione di 100.000 precari, che non è poca cosa. Immissioni fatte però un po' in fretta. Molti infatti i docenti che si sono visti assegnare posti talmente lontano da casa da dover rinunciare. Altra novità importante della buona scuola, la valutazione di dirigenti scolastici ed insegnanti. Ai docenti più meritevoli è andato un bonus, sempre sempre docenti, è andato anche il voucher da 500 euro. Sul fronte degli studenti è diventata obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro. Tante dunque le novità della buona scuola, ma 500.000 persone fra docenti, famiglie e studenti sono scese in piazza il 5 maggio 2015 in una manifestazione con dimensioni che non si vedevano da anni. Qualcosa dunque, nonostante i buoni propositi, non ha funzionato, come ha ammesso lo stesso Renzi. Come abbiamo fatto, mettendo 3 miliardi nella scuola, a far arrabbiare tutti? Ci vuole del talento. Ora la palla passa al nuovo ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. 9 le deleghe della buona scuola che scadranno a fine gennaio, quindi bisogna davvero fare in fretta, altrimenti sarà tutto da rifare. Dentro ci sono anche il sistema integrato 0-6 anni per nidi e scuole dell'infanzia e la nuova maturità. E allora, caro Dario, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori così per salutarli in questi giorni di festa? Beh, sicuramente godetevi questo scampolo di festività e guardiamo il 2017 anche con un po' di fiducia, un po' di ottimismo, perché sicuramente i temi, come si dice, ogni grande crisi, ogni grande problema è anche un'opportunità, no? Di solito, altro luogo comune, noi italiani in certe situazioni riusciamo a tirare fuori il meglio, beh, speriamo proprio di farlo. Ti chiedo, secondo te chi sarà il protagonista del 2017? Secondo me il protagonista spero che sia l'ambiente, comunque che si lavori molto sulle politiche di sostenibilità ambientale. E tu invece, Dario, che cosa pensi? Cosa ti aspetti da questo 2017? Ma guarda, io da tifoso juventino mi aspetto la Champions, poi per il resto, per i grandi scenari internazionali, delego volentieri ai potenti della terra. E allora con questo vi salutiamo e vi auguriamo appunto un buon proseguimento di ascolto su Radio 24.